24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:22 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Saluto Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Parliamo oggi di politica, ebbene sì, sono i giorni decisivi, di questo parleremo oggi, domani, nei prossimi giorni. Forse per Mario Monti al governo, oppure le elezioni, questo vi chiediamo oggi, governo tecnico con Mario Monti oppure elezioni, che ne pensate? Ne parleremo alle 8:20 con ospiti politici ed ora iniziamo dalla lettura dei giornali che si concentrano ovviamente su questa notizia, quello che succederà al governo nei prossimi giorni. È giovedì 10 novembre. Intanto i titoli di apertura, Il Sole 24 Ore che oggi esce con un'edizione graficamente particolare, con tre dorsi, apre il primo dorso con un titolo a caratteri cubitali, Fate presto, è il titolo che, come scrive il direttore Roberto Napoletano, è stato preso da quel Fate presto del Mattino di Napoli dopo il terremoto dell'Irpinia. Fate presto, ma scritto a caratteri davvero molto molto grandi. Gli altri titoli, il Corriere della Sera e il Messaggero aprono con lo stesso identico titolo, governo verso l'incarico a Monti, per Repubblica dramma in borsa in campo Monti, La Stampa mossa del colle spunta Monti, Il Giornale blitz dei poteri forti, per Libero qui viene giù tutto, Il Fatto Quotidiano tempo scaduto, per l'Unità l'uomo del colle e c'è la foto di Monti, mentre il Manifesto abbiamo un senatore, Monti ieri è stato nominato a sorpresa senatore a vita dal presidente Napolitano. Come vedete i titoli sono tutti declinati sull'attualità politica, i titoli almeno di apertura. Da cosa voglio partire però? Da alcune notizie un po' di taglio diverso, sicuramente più leggero. La prima la troviamo in prima pagina del Corriere della Sera. Gli amici veri sono due a testa. L'articolo di Maria Laura Rodotà è una ricerca che proviene dalla Cornell University e scrive Maria Laura Rodotà: altro che più amici grazie a Facebook, quelli veri sono solo due. Al netto della caterva di amici di Facebook, di colleghi, quelli con cui ci si vede periodicamente a cena, gli amici, partners, dei compagni di calcetto, di aperitivo, al netto di tutte le scremature esaminate dai ricercatori, gli amici veri restano due o tre, anzi a contarne 4-5 ci si sente sopra la media. Questo, non so se vi riconoscete nella media di questa ricerca, la ricerca della Cornell University, dice che insomma in media gli amici veri, quelli che possiamo considerare amici con la maiuscola, per tutti sono due, massimo tre. Questo in media ovviamente ha contribuito in negativo lo sviluppo di internet dove tutti si è in contatto, ma in maniera così virtuale non ci si vede più, non ci si sente sempre meno anche al telefono, perché si chatta, si digita, si manda la mail, si manda il messaggino, ma certo questo è il rapporto autentico, è un'altra cosa. Vabbè, voglio invece dare un'altra notizia che è in pagina 26 di Repubblica, che un po' mi fa un dolore al cuore, perché in Italia ci sono soldi per tante cose. Ci sono soldi per comprare anche le Maserati al Ministero della Difesa, ci sono soldi per tante auto blu, sì, sto andando un po' nel qualunquismo, ci sono soldi per la casta, ci sono soldi per il ristorante al Senato, ma non ci sono 50.000 euro all'anno per lo Stato, 50.000 euro all'anno per dare questi fondi al Museo di Sant'Anna di Stazzema. Stazzema, Roma taglia i fondi e chiude il museo dell'eccidio, è un'offesa alla memoria delle vittime, faremo causa allo Stato, così dice Michele Silicani, sindaco di Stazzema, senza parole. A Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto del 44 ci fu uno dei più efferati massacri compiuti dalle SS in ritirata dopo la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Ebbene, in questo paesino della Versilia furono trucidate 560 persone, in quel museo che oggi è visitato da 50.000 persone all'anno, con spese di manutenzione di 50.000 euro all'anno garantite dallo Stato. Da Roma, dice il sindaco, non sono arrivati i soldi del 2010, non sono arrivati i soldi del 2011 e dopo mille promesse ora li cancellano. Una vergogna, dice anche il senatore del PD Andrea Marcucci, per 100.000 euro Galan, il ministro Galan, sferra uno schiaffo a un simbolo sacro della nostra Repubblica, mentre due settimane fa ha finanziato con 2 milioni quattro istituti di storia medievale. Io non ci voglio credere, sarà stata sicuramente una svista. Da lunedì di fatto le porte saranno sbarrate, il museo dell'Eccidio di Sant'Anna di Stazzema sarà chiuso, dicono i suoi responsabili di questo museo. Ripeto, non ci voglio credere e voglio credere che entro lunedì ci sarà, forse, dicono, un governo tecnico, ma si troveranno anche 50.000 euro o 100.000 per mantenere aperto questo museo. 24 mattino. Allora, le 7:34 minuti, mentre tanti già ci scrivono via SMS chi vuole le elezioni, chi il governo tecnico con Mario Monti, ma ne parleremo alle 8:20 con ospiti politici. Certo, questo è il tema che da oggi ci sarà nei prossimi giorni anche sui giornali, anche perché il timing, come si usa dire in questi casi, è molto ristretto, è molto serrato e pare che sia così. Questo nell'ipotesi di governo tecnico. Ieri Napolitano, spiazzando un po' tutti, ha nominato Mario Monti presidente della Bocconi, ex commissario europeo, senatore a vita, tra l'altro una nomina che è stata controfirmata dal premier Berlusconi e non era un atto dovuto, e qualcuno vede in questa controfirma anche un appoggio del premier Berlusconi a questa via. L'approvazione della legge di stabilità entro domenica, quindi con i parlamentari che lavoreranno anche il weekend, sabato e domenica, in modo da fare le consultazioni nella giornata di domenica, dare il mandato a Mario Monti entro domenica sera in modo da presentarsi alla riapertura dei mercati settimana prossima, e sappiamo che ieri i mercati hanno fatto pagare un salasso bestiale, ripartire settimana prossima con un incarico a Mario Monti. Ovviamente poi bisognerà vedere se questa ipotesi di governo ottiene la fiducia con la maggioranza alla Camera. Questo però sarebbe il percorso, secondo tutti i giornali, nella mente del capo dello Stato. La svolta sofferta del premier ora apre al nuovo governo, così a pagina 5 del Corriere della Sera Marco Galluzzo racconta che aveva iniziato la giornata poco dopo le 8 del mattino difendendo convinzioni in apparenza granitiche esternate su Canale 5, nessuna maggioranza diversa da quella attuale, ma poi Berlusconi col passare delle ore, col crollo del valore dei nostri titoli di Stato, con mezzo partito e mezzo governo contrari al voto anticipato, col rischio di una balcanizzazione del centrodestra alla Camera e al Senato, ha aperto all'ipotesi di un governo di emergenza. Tra l'altro, racconta Repubblica, sono stati Gianni Letta che gli ha detto Silvio, 3 mesi così non li reggiamo, e poi Fedele Confalonieri che l'ha chiamato dicendo Mediaset sta crollando, ha perso il 12% in borsa, devi accettare il governo Monti. Le telefonate, secondo Repubblica, anche di Mario Draghi, neopresidente della BCE, che gli ha detto Presidente, i mercati non hanno capito la tempistica delle dimissioni, non si fidano. Questa la telefonata sarebbe al capo dello Stato, di Mario Draghi a Napolitano. E anche le telefonate di Ignazio Visco, governatore di Banca Italia, Presidente, la situazione è pesantissima, sta di fatto che Napolitano si sarebbe convinto con questa mossa, appunto, di nominare Mario Monti e Berlusconi l'avrebbe accettata. Tra l'altro segnalo oggi a pagina 6 l'intervista al ministro degli esteri dimissionario Franco Frattini, fatta da Francesco Verderami, siamo sul Corriere della Sera. Il cavaliere chiuda da uomo di Stato, aiuti a salvare il paese anche con il PD. Un Frattini che sembra smarcarsi da Berlusconi, dice spetterà al Presidente della Repubblica esplorare il PD, ma prima va l'Italia a questo punto. Ho parlato con Berlusconi, credo che comprenda la situazione, nessuno può sentirsi additare come leader di una forza che ha fatto fallire l'Italia. E alla domanda, senta Frattini, ma se accetta o no questa idea di salvare addirittura con il PD l'Italia, sta riflettendo seriamente e se dicesse di no ci sarebbero gravi conseguenze per il paese, se il partito indicasse la strada delle elezioni anticipate, non parteciperei a quella partita e mi dissocierei pubblicamente in Parlamento. Beh, è abbastanza clamorosa questa posizione di Frattini. Al punto da lasciare il Popolo della Libertà, chiede Francesco Verderami, sarebbe un'opzione e credo che larga parte del gruppo dirigente sarebbe della mia stessa idea. Insomma, Frattini prende posizione apertamente contro le ipotesi di voto, cosa che invece vuole Berlusconi. E su questo, tra l'altro, vedremo tra poco, il partito sembra proprio, anche il governo, spaccato a metà. Chi dice ci vuole il voto, chi dice invece, come Frattini, in maniera pubblica, no, bisogna avere un governo che salvi l'Italia di unità. Sta di fatto che sulla stampa circolano già i possibili nomi di ministri di un ipotetico governo tecnico. Ovviamente qua siamo a retroscena del retroscena, ma Fabio Martini a pagina 4 racconta del governo che avrebbe in mente Monti. Tra i ministri, zero politici, che rimarrebbero solo nelle posizioni di sottosegretari o viceministri, e tra i ministri sarebbero Giuliano Amato agli esteri, un uomo della Banca d'Italia all'economia, forse Fabrizio Saccomanni o Lorenzo Binismaghi, così si risolverebbe anche il problema di liberare quel posto alla BCE che pretende la Francia. Mentre per il cruciale incarico di ministro di Grazia e Giustizia si starebbe pensando a una personalità di garanzia gradita comunque al centrodestra. Si parla anche dei grandi rapporti ottimi tra Monti e Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, uno degli uomini di punta della Compagnia delle Opere. Anche su Libero, per la verità, c'è il Toto Ministri a pagina 3 di un ipotetico governo Monti. In questo caso Giuliano Amato è dato in corsa per l'economia. Rimarrebbero ministri Frattini, Fitto e Gianni Letta sottosegretario, come invece rimarrebbe anche ministro, così avrebbe chiesto Berlusconi, Nitto Palma alla giustizia. Ma insomma, c'è anche Francesco Giavazzi come economista, come molto amico di Monti, come papabile ministro. Vedete, ci sono già il toto ministri. Il Sole 24 Ore fa sapere con Donatella Stasi due articoli interessanti che voglio far notare. Il primo è a pagina 5, Mills, Mediaset e Ruby, Berlusconi senza scudi. Scrive Donatella Stasio, attento, farai la fine di Craxi, continuava a sussurrare qualcuno all'orecchio di Berlusconi in queste settimane. E la questione è anche la questione giudiziaria che coinvolgono il Premier in caso di dimissioni. E quindi con la garanzia, se non di continuare a gestire le sue pendenze giudiziarie come ha fatto finora, quantomeno di guadagnare tempo, allontanare da sé l'amaro calice di eventuali condanne, come quella per corruzione giudiziaria al processo Mills, giunto alle ultime battute, che comunque in primo grado sarà comunque prescritto dopo, prima che arrivi in Cassazione, ma un'eventuale condanna getterebbe un'ombra sulle due precedenti assoluzioni nei processi delle tangenti alla Guardia di Finanza e Oliberian. Un risarcimento poi per De Benedetti, 564 milioni. Insomma, scrive Donatella Stasio, preoccupazioni e fantasmi agitano le notti del Premier, hanno pesato sulla scelta di resistere per mollare solo a certe condizioni. Il secondo articolo invece che vi vorrei segnalare è di Roberto Turno a pagina 7, con il voto è a rischio il taglio dei deputati. Questo, io non è che ho una posizione, insomma, già questo mi farebbe pensare no, per carità, continuiamo la legislatura. Sappiate che con il voto, se si dovesse andare al voto, ovviamente decadono tutte quelle leggi che sono in itinere e una tra queste è quella che prevede il taglio dei parlamentari. Si salvano anche stavolta. Se fallisse l'ipotesi di governo tecnico e si votasse subito, avremmo ancora il bicameralismo perfetto e per un'altra legislatura dovremmo dire addio al taglio dei parlamentari e dei costi della politica dei palazzi romani. Notate come il tono è diventato funereo nel leggere questo inizio dell'articolo di Turno. Dovremmo riporre nei cassetti la voglia presunta della casta di abolire le province. Anche le province ci terremmo per un'altra legislatura. La riforma del fisco e dell'assistenza resterebbero nel limbo. Insomma, le elezioni anticipate sancirebbero il fallimento di tutte quelle riforme annunciate con la gran cassa da Berlusconi. Chiaramente cade la legislatura e quindi si fermano tutte le leggi. I commenti, come detto, ne segnalo alcuni. Il primo, la prima pagina del Sole 24 Ore, come detto, è questo titolo a caratteri cubitali: fate presto. Il direttore Roberto Napoletano fa un commento sotto dicendo: abbiamo deciso di aprire questa pagina rubando a Roberto Ciuni, al quotidiano Il Mattino, quel titolo, fate presto, pubblicato dopo il terremoto dell'Irpinia, 23 novembre dell'80, scrive Napoletano: si impone la scelta ora di un governo di emergenza nazionale dove le forze di politica più responsabili, a partire dal PDL di Berlusconi, decidono di investire su persone che per la loro storia e i loro comportamenti abbiano dimostrato di conoscere la lingua dei mercati e degli stati e abbiano quindi le carte in regola per negoziare alla pari del mondo e convincere gli investitori della solidità e affidabilità dei titoli sovrani italiani. Quindi questo è l'appello del direttore del Sole 24 Ore, anche in prima pagina del Corriere della Sera, il direttore Ferruccio De Bortoli, con il titolo dell'editoriale Possiamo farcela, scrive: la nomina a sorpresa di Mario Monti a senatore a vita prelude alla sua designazione, appena sarà approvata in tutta fretta la legge di stabilità, la guida di un esecutivo di emergenza nazionale, una mossa che sottrae il nome dell'economista milanese alla contesa politica e ne sottolinea le qualità super partes. Il pensiero di Monti è noto ai lettori del Corriere, il prestigio internazionale è indiscusso, la sua bussola è l'Europa. Non è un freddo tecnocrate, è un italiano appassionato, disposto a svolgere il ruolo di civil servant, senza mire personali, è portatore di idee e non di interessi. Una svolta clamorosa, insomma, che De Bortoli benedice con questo editoriale e approva. Mentre sul Foglio Giuliano Ferrara insiste: un governo tecno-burocratico? No, grazie. L'editoriale di Ferrara anche oggi si conclude così: possiamo sbagliare, ma neghiamo in radice che Berlusconi lasci il campo a un governo tecno-burocratico. Si vota. Questo è Ferrara, e sta di fatto che la politica è divisa in questo, e oggi continueremo, la rassegna stampa è praticamente dedicata tutto a questo. Si vota oppure no? La Lega... qui i partiti, insomma, tra l'altro sul Sole 24 Ore trovate come sono posizionati, diciamo, si può dire che la Lega ha detto si deve votare. Infatti oggi la Padania: no a un governo truffa, e Bossi ha detto anche questa frase: è bello stare all'opposizione. Quindi la Lega è pronta all'opposizione. Per il voto è anche l'Italia dei Valori, per il voto è anche SEL, il partito di Vendola, anche perché non sono nel Parlamento. Il PD, insomma, si capisce, a metà e metà e metà. E oggi Bersani fa un'intervista sull'Unità dicendo: l'Italia prima di tutto, siamo pronti a appoggiare un governo di unità nazionale, ma se non si riesce ad avere un governo credibile che dia discontinuità, allora si vada a votare. Mentre il PDL è spaccato su questo. E poi c'è il partito di coloro che, e si sa, puntano al vitalizio. E quindi il Partito del Popolo della Libertà è diviso, e anche il governo, abbiamo detto di Frattini che ha detto no al voto in un'intervista al Corriere, ma anche Fitto tra i ministri pare appoggiare Monti, mentre gli ex AN, Matteoli per esempio, ha detto no, bisogna andare a votare. I ministri anche Sacconi e Meloni sarebbero sulle barricate contro il governo Monti, sulle barricate, scrive così almeno il titolo di Libero a pagina 12. Insomma, il governo su questo è diviso. E poi ci sono quelli che puntano al vitalizio, ma certo, ma come no, quelli che sono alla prima legislatura, e se da quest'anno, da adesso, l'ho detto 100 volte ma lo ribadisco, bisogna fare l'intera legislatura, 5 anni, non bastano più 2 anni, 6 mesi, 1 giorno, 5 anni per ottenere il vitalizio. Eccolo qui, Grassano, Maurizio Grassano, dei responsabili: se esco di qui faccio il disoccupato. Intervistato da Repubblica: la mia paura è che mi ritrovo disoccupato. I giudici mi hanno anche tolto tutto, il lavoro, mi hanno condannato 4 anni per truffa aggravata. Ai 4 anni aggiunga i 5 di interdizione dai pubblici uffici, parla con Antonello Caporale su Repubblica. Se esco da qui rischio il carcere. Ho gli incubi, qualche volta sogno la cella con la mia vicina quella dell'onorevole Papa. Berlusconi mi ha promesso la candidatura, la rielezione, io mi fido del prossimo. Alcuni per mettermi paura dicono che ha un fare banditesco, che prende, porta via e dimentica chi l'ha aiutato, ma io confido davvero questo, la disperazione di Grassano che dice se esco divento disoccupato, peggio ancora rischio il carcere. Il titolo del giornale, a pagina 6, malpancisti anti-elezioni per non perdere il vitalizio. E quindi questi potrebbero portare voti anche, non so, quelli all'interno dell'attuale maggioranza che sono al primo mandato, che volessero puntare a questo legittimo privilegio dei parlamentari, potrebbero così decidere, non sono cose da sottovalutare, potrebbero decidere di appoggiare un governo tecnico pur di finire la legislatura. Ci sono anche questi calcoli. Oppure l'ex generale Roberto Speciale, ora onorevole al Messaggero del Popolo della Libertà, al Messaggero dice: basta appartenenze, se il partito sbaglia non lo seguo. Vedete, ogni giorno si scopre qualcuno che è pronto, diciamo, a cambiare opinione politica. Il generale Speciale, onorevole Speciale, dice: ma che, non tradisco il cavaliere, ma la giornata di ieri ha fatto capire a Berlusconi che serviva un cambio rapido. Intanto Gabriella Carlucci scrive al Corriere della Sera: non sono una traditrice, non ho tradito nessuno. E insomma è il momento in cui volano anche queste accuse molto molto forti. E vabbè, lasciamo la politica, diamo uno sguardo rapidissimo alle due o tre notizie che vi voglio segnalare da altri giornali. Mentre qui in Italia si discute di governo tecnico, sì, no, elezioni, in Iran e in quella parte del Medio Oriente si rischia una guerra. Perché da giorni, insomma, Israele punta a dire attenzione, e non solo Israele. Ieri c'è un rapporto anche dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che ha detto: guardate che l'Iran sta cercando il nucleare non per scopi civili. E dunque si aggrava questo rischio di tensioni con Israele che spinge: bisogna fare degli attacchi preventivi. Nucleare iraniano, lo scontro sulle sanzioni, la Russia dice di no, Parigi invece punta a misure dure, Teheran ovviamente minaccia: non recediamo di un solo millimetro. Anche per il manifesto c'è il rischio atomico, tutti contro l'Iran, e anche per l'unità il titolo: Teheran, se ci portano alla guerra lo Stato di Israele sarà distrutto. Questa è la minaccia del leader iraniano Ahmadinejad. Voglio chiudere con due segnalazioni. La prima è questa: c'è poco da ridere, perché è una delle angosce di molti, anche una delle mie angosce, quando arriverà l'ora, spero il più tardi possibile, quella di essere sepolto vivo. Il Veneto ci ha pensato e la Regione Veneto ha deciso di fare una delibera per sorvegliare le salme per un tot di ore, perché potrebbero risvegliarsi. L'assessore regionale alla sanità dice: tutti abbiamo paura di essere sepolti vivi, non c'è niente da ridere, ed è vero, io infatti non ci rido per nulla. E il Veneto dunque, per merito dell'assessore alla sanità, ha licenziato una delibera che prevede che ciascuna casa funeraria presente nelle ditte private del ramo sia dotata di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Insomma, controllatelo con una telecamera per tot ore prima che si risvegli. Il titolo del giornale, ma anche su Libero una pagina: telecamere sulle salme per sorprendere lo zombie. Che dire, questo è. Infine, il Secolo XIX, una mezza pagina: fai shopping e Ikea ti tiene il marito. Succede in Australia, di solito si parcheggiano i bimbi, e invece Ikea in Australia ha detto: non volete quei mariti che ciondolano di fronte e al seguito delle mogli con le loro matitine che prendono misure a Ikea? Vi teniamo i mariti, voi fate tutte le vostre compere e loro giocano a calcio balilla, ai videogiochi, si rilassano, bevono un cocktail. Così Ikea in Australia: fai shopping e Ikea ti tiene il marito. Vabbè, funziona anche così. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la domanda che ci vogliamo porre oggi e che si pone un po' tutta l'Italia, gli italiani che seguono la politica in questo momento drammatico, è: allora, elezioni o governo tecnico e con il nome di Monti in prima linea? E intanto vogliamo iniziare con l'onorevole Roberto Antonione, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Del Popolo della Libertà, anche se mi pare di capire ancora non so per quanto, per poco credo. Sì, noi stiamo decidendo proprio in queste ore quale sarà la nostra collocazione parlamentare, ma francamente ritengo che sia difficile, almeno parlo per me personalmente, pensare di continuare un'esperienza politica all'interno di un partito che oggettivamente, invece che ascoltare quello che con chiarezza, trasparenza, lealtà e anche coraggio stavamo a dire, ci ha preso ad insulti, perché o a minacce o a lusinghe, pensando che questo potesse essere il tema migliore. O a quella parola, a quella parola tradimento. Io voglio vogliamo ricordarlo, aspetti, agli ascoltatori, perché ieri Berlusconi in un colloquio alla stampa ha parlato proprio soprattutto di lei: mi hanno tradito quelli che ho portato una vita nel cuore, penso ad Antonione, non riesco ancora a crederci, a tutto quello che ho fatto per lui, lo ho nominato coordinatore di Forza Italia, candidato a governatore, incredibile, sono anche il padrino del battesimo di sua figlia e lui mi tradisce. Qui c'è anche una questione, vicenda umana, di rapporti umani, Antonione. Ma guardi, io francamente lascio fuori le questioni personali, soprattutto le questioni familiari, che nulla hanno a che vedere con la politica. Il mio pensiero, il pensiero di alcuni colleghi, è un pensiero molto semplice, quello che oggi peraltro la grande maggioranza del partito, del PDL, come dire, condivide. Basta vedere le dichiarazioni e l'intervista di Franco Frattini oggi. Sì, l'abbiamo letta prima al Corriere. Ecco, per registrarla, quindi fino a ieri erano tutti contrari, alcuni hanno voluto con chiarezza, trasparenza, coraggio e lealtà a spiegare le ragioni per cui noi intendevamo aprire un processo che consentisse al nostro paese di affrontare questa crisi e arrivare a quello che spero sia il punto di arrivo sul quale sta lavorando in maniera veramente encomiabile e autorevole il Presidente della Repubblica. E questo, invece che essere, come dire, una discussione sul piano politico, diventa personale. Quindi lei dice siamo leali, altro che traditori, questo dice. Guardi, io penso che gli amici sono veramente amici quando raccontano anche le verità più scomode, perché sennò non sono amici, o sono adulatori o sono dei comprati e chiudono il loro cervello solo per comodità. Noi francamente non avevamo nulla da guadagnarci, come testimoniano, come dire, gli avvenimenti. Ma lei ha parlato avevamo anche di minacce. Semplicemente un desiderio che ci veniva imposto dalla nostra coscienza di mettere di fronte alle responsabilità tutti, perché prima dell'interesse di parte ci deve essere l'interesse per il paese. Senta, ma lei ha parlato di minacce, ha subito minacce? Ma guardi, se lei va su Facebook trova tutto e di più. Ma Facebook lo lasci per quello che è, la gente si va a sfogare. Lasciamo stare, insomma, no? Perché se qualcuno poi aizza quelli che sono forse un pochino meno equilibrati, no? Soprattutto quando si parla di persone che dovrebbero avere alta responsabilità. Per esempio su Facebook Storace ha scritto: andrebbero fucilati alla schiena quelli. Ecco, vede, questo è un problema sanitario, capisce? Non è un problema politico, perché se in un paese civile il confronto di idee, anche quando non si condividono, scade a questi livelli, allora capisce che è molto complicato cercare di risolvere i problemi veri che abbiamo di fronte. Io non ho speso una parola e non intendo farlo nel criticare nessuno. Esprimo e noi tutti all'interno di questo gruppo che stiamo, come dire, costituendo, esprimiamo la nostra idea, la nostra proposta, che può essere condivisa, non condivisa, criticata, ma certamente non insultata, perché non ha nessun senso. E dopodiché il giudizio lo devono dare i cittadini. Ma certo, senta, mi dica, secondo lei quanti sarete? Perché poi un eventuale governo Monti, lei ha detto, ha fatto capire, spera in un governo tecnico con Monti è il nome che più poi deciderà il capo dello Stato, però quanti sarete del PDL ad appoggiare questa idea? Secondo lei, faccia una previsione, perché poi ci vogliono i numeri, ci vuole la fiducia. Guardi, Io penso che saranno la stragrande maggioranza dei colleghi, perché le posizioni che abbiamo avuto il coraggio di esprimere pubblicamente noi erano posizioni largamente condivise anche prima. Se lei parlava, ovviamente, diciamo in maniera riservata, con la stragrande maggioranza dei membri del parlamentari del PDL, erano tutti a condividere il fatto che un governo con 316, 317, 318 numeri, membri e maggioranza non poteva continuare a governare. Ma lo dicevano tutti, è evidente, è un dato palese, solare. Allora, quando si vuole negare la realtà, i risultati poi, come dire, lo sconfessano queste cose. Senta, ma secondo lei Berlusconi è finito il berlusconismo, e come sta finendo, se sta finendo? Guardi, posso dirle, non voglio dare nessun giudizio, ma anche perché a caldo dare dei giudizi sulle questioni. Ma però sembra che stia finendo un'epoca politica molto lunga. Ma io penso molto... che invece che analizzare quello che è il passato, noi dobbiamo impegnarci a costruire il futuro. Ci si trova di fronte, il nostro paese si trova di fronte a una situazione talmente difficile che non c'è tempo di recriminare, analizzare, incolpare o discolpare o comunque aprire dibattiti che, come dire, lasciano il tempo che trovano. È molto più utile, è molto più importante e anche urgente uscire da questa situazione. Però so che lei Berlusconi l'ha sentito, se non sbaglio oggi alla stampa ha detto vi siete sentiti al telefono, perché... Ma non c'è dubbio, certo, perché le cose che penso, prima di tutto, le ho dette a lui, non le ho dette pubblicamente. Io al Presidente gli ho detto, se tu vuoi sentire la verità, almeno la mia verità, che non ho la verità rivelata, ho un convincimento, ti dico delle cose che non ti fanno piacere, ma te le devo dire, perché agli amici la verità si racconta anche quando è piacevole. E cosa le ha detto? Piacevole. Qual è questa cosa spiacevole? Gli ho detto che secondo me era molto meglio che lui lasciasse il governo, che si impegnasse da responsabile politico a costruire una stagione che favorisse un dialogo parlamentare, perché il nostro paese aveva bisogno e ha tremendamente bisogno di una coesione parlamentare e sociale la più ampia possibile per affrontare questa situazione di emergenza. Questo gli ho detto, dicendogli anche che un governo che ha numeri così risicati, anche se dovesse essere in grado di proseguire in maniera asfittica la legislatura, non potrebbe affrontare questa situazione e di conseguenza farebbe danni a se stesso, al paese, al nostro partito e certamente anche al presidente, che avrebbe la responsabilità maggiore. Senta, quindi era per il bene anche suo che... No, ma è chiaro, questo è quello che gli ha detto. Per concludere, so che lei ha detto anche da mesi in Parlamento non facevamo nulla, insomma non si votava su cose inutili. Lo dicono le cronache parlamentari. Cioè si sentiva quasi di... solo voti di fiducia. Si sentiva di, tra virgolette, rubare lo stipendio, insomma, che non è neanche poco. Ma no, guardi, io onestamente questo sentimento non l'ho mai avvertito, perché uno poi, anche quando non è in aula, per capirci, ha tante cose da fare. La prima cosa che deve fare un parlamentare, secondo me, è studiare, perché non si misura l'attività parlamentare dai minuti o dalle ore o dai giorni che uno sta in aula. Quello è l'ultimo momento, è come se dicessi che l'attività dei giornalisti si misura solo sulle righe dell'articolo, ma per scrivere un articolo, così come per andare in un'aula di Parlamento, bisogna prepararsi. Ah, e la preparazione, l'approfondimento, lo studio impiega un tempo rilevantissimo, perché i problemi sono complessi e se uno si impegna seriamente c'ha da fare tantissimo. Io intanto la ringrazio, onorevole, per essere stato grazie con noi, Roberto Antonione del Popolo della Libertà, ma insomma, che ha manifestato questi disagi, poi ha ditato ieri pubblicamente a Berlusconi come traditore numero uno, ecco, come ci ha spiegato la sua posizione. Noi rimaniamo a parlare di questo con il vostro contributo, anche se volete 800240024. Allora, governo tecnico oppure elezioni? Avete paura che l'Italia fallisca? Guardate con timore ai mercati, a quello che sta succedendo. Bisogna fare in fretta, fare presto, come titolo oggi, col titolo Fate presto il Sole 24 Ore. Ne parliamo tra poco col sottosegretario Giovanardi e con un esponente di Future Libertà, Benedetto Della Vedova. E allora eccoci, 8:37 minuti, il timing è questo: approvazione della legge di stabilità entro sabato, le dimissioni annunciate dopo l'approvazione del premier Berlusconi, e poi lì la politica si interroga, ci vuole un governo tecnico, e questa è la linea che appare dai giornali, con Mario Monti come nome maggiormente candidato dopo la nomina ieri a senatore a vita, e addirittura un incarico entro domenica in modo da riaprire la settimana prima dei mercati con un incarico formale a un governo tecnico, oppure bisogna andare alle elezioni? È questo che vi chiediamo, è questo che la politica su cui si interroga la politica, ne vogliamo discutere con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Saluto anche il capogruppo di Future Libertà alla Camera, Benedetto Della Vedova, onorevole, buongiorno Della Vedova. Buongiorno. Allora, di Future Libertà tra poco ce lo spiegherà meglio, ma sappiamo la posizione di Future Libertà è per non andare alle elezioni, un governo che prosegua la legislatura. Vorrei capire invece da Giovanardi, perché il Popolo della Libertà è diviso, almeno oggi Frattini per esempio ha detto non si deve andare alle urne. Lei, Giovanardi, da che parte sta? Allora, andiamo con ordine, con due ragionamenti preliminari. Uno, credo che la prima cosa da avere in mente in queste situazioni drammatiche per il mondo e per l'Italia è la salvezza della patria, quindi in cima ai pensieri di ciascuno di noi ci deve essere il modo di mettere in sicurezza l'Italia. La seconda cosa che voglio dire, parafrasando Raimondo Montecuccoli, che è stato il grande generale dell'impero, che scrisse il libro degli aforismi sulla vita militare, un testo fondamentale di strategia militare, che la prima preoccupazione di un comandante deve essere la salvezza dell'esercito, senza il quale esercito non si salva la patria. Faccio questo ragionamento pensando al PDL, non è un ragionamento che può sembrare stravagante, perché qualsiasi soluzione esca, compreso un governo tecnico, funziona se ha una base parlamentare larga. Beh, certo, questo. Perché se un governo tecnico deve partire con la Lega che sta fuori e fa opposizione, Di Pietro che sta fuori che fa opposizione, la sinistra estrema che sta fuori e fa opposizione sociale nel paese, scioperi rispetto a... Non in Parlamento, perché lì non ci sono. E un PDL magari che si spacca diviso, sarebbe un governo tecnico che ci porta poco lontano. Ma lei personalmente come... Perché voglio dire, il PDL, si sa, Berlusconi vuole andare alle elezioni, quindi che il PDL al massimo... Non è così. No. Non è così. Come no? C'è una riflessione in corso di tutti, ed è per quello che io auspico l'unità del PDL, dove si fanno dei ragionamenti sempre avendo come riferimento la salvezza della patria, no? Cioè la situazione italiana si risolve attraverso un governo tecnico, c'è cioè una specie di commissariamento della politica. Sì. E se questo commissariamento della politica fallisce? Quindi lei dice o convinciamo, posso tradurla così, o convinciamo Berlusconi della importanza del governo tecnico, oppure un governo tecnico non può nascere. Non è così, perché secondo me il problema non è di convincere Berlusconi, è di convincere il Parlamento e il PDL. Perché se i 50 del PDL votano contro, sì, 50 votano a favore, la Lega vota contro, Di Pietro vota contro, i numeri sono risicati, i numeri sono risicati, lei dice. Non sono risicati, perde di credibilità fin dall'inizio. Allora, se fosse così, preferirei il PDL unito nel dire, ma sarebbe un discorso di riflessione nazionale. Guardate, in due mesi andiamo alle elezioni, in questo caso il governo che nascerà dopo tanto sarà un governo democratico che avrà l'avallo popolare, però le due cose di cui sto parlando non sono due cose certe e sicure. Io dico soltanto che il PDL auspico che unitariamente, tutti assieme, decida una delle due posizioni. Ma lei da che parte sta? Cioè, lei sarebbe più propenso a buttarsi? Io devo vedere come voi, per esempio, quali sono le situazioni delle forze parlamentari. Ripeto, se la Lega conferma che sta contro, sì, se Di Pietro sta contro, se per esempio su ipotesi come patrimoniale o misure molto severe, il PD cosa fa? Insomma, lei al momento non ha un'idea precisa, deve vedere. Ma è chiaro, sentiamo Della Vedova, le piace questa posizione, cioè, ma il Futuro e Libertà per continuare questa legislatura. Ha sentito Giovanardi? Sì, ho sentito ripetere, ma adesso vedevo sul sito di Repubblica, che il vertice notturno finito a notte fonda alle 2 alle 3 del PDL lascerebbe intendere che anche Berlusconi si avvia verso un sostegno al governo Monti. Ma a parte questo, noi riteniamo, come Futura Libertà e come Terzo Polo l'abbiamo detto a chiare lettere, che serva un governo con una maggioranza il più ampia possibile, ma che serva un governo e non servano oggi le elezioni anticipate. Sarebbe una campagna elettorale brutta, previsione mia naturalmente, in cui l'emotività, lo scontro, tutto quanto accumulato in questi lunghi anni e soprattutto in questi 3 anni di scontri, di fratture, di contrasti, finirebbe per impedire perfino che poi gli elettori siano chiamati a giudicare, oltre che sulle leadership, anche sul contenuto, sui programmi. Io credo che l'accelerazione che è stata data ieri al percorso individuato da Napolitano, ieri mattina, mi permetto di dire, sono stato tra i primi a essere preoccupato dal clima di incertezza che si era generato e a chiedere che si arrivasse al voto della legge di stabilità entro domenica, proprio per consentire a Napolitano di fare le sue valutazioni entro lunedì mattina. L'ho proposto alla conferenza ai capigruppo, sembrava una cosa strana, per fortuna c'è stato questo straordinaria accelerazione, straordinario salto di qualità, legata però a una giornata drammatica, ma giornata drammatica o no, e quella di ieri lo è stato, abbiamo superato l'allarme rosso, ma che bisognasse fare presto, come oggi scrive il Sole 24 Ore con questo titolo, che dà proprio il senso di un salto di qualità assoluto, sì, anche graficamente, che bisognasse fare presto, dal mio punto di vista era noto da tempo, e io credo che appunto quello che noi poi come Futura Libertà, posto che ormai passato è passato, è già trapassato quello che è successo prima, dobbiamo solo guardare al futuro, che la crisi arrivava e che bisognasse fare un salto di qualità nel governo, noi lo chiedevamo un anno fa. Oggi credo che se poi la scelta finale sarà, come io auspico per mille ragioni, quella di nominare Mario Monti incaricare da parte del presidente Napolitano Mario Monti come primo ministro incaricato, io credo certamente il Terzo Polo indosserà il immediatamente. Il problema però, Giovanardi, dice chi cosa fa il PDL, che ha tanti voti, voglio dire, cioè se si spacca effettivamente nasce, e la Lega ha già detto no Monti, la questione è: nasce legittimato in maniera forte oppure no? Allora, 800 24 00 24, volevo sentire anche un po' il polso del paese, gli elettori. Fulvio da Fossano, buongiorno. Fulvio, che dice lei? Buongiorno dottor Milan, sì, io sono come posizione personale per il governo tecnico e lo sono per due ragioni definite. L'una è quella di cui abbiamo parlato più volte, di cui si è sentito parlare anche questa mattina, cioè l'emergenza contingente della crisi economica. La stabilità, dare stabilità, esatto. Cioè non avere 2 mesi, 3 mesi di vuoto elettorale. Il mercato non ci lascia più questo spazio. E la seconda? Temporale. La seconda motivazione è che noi ci troveremo come italiani in una grandissima problematica da andare a votare tra ipotetici 45 giorni, ancora più imbarazzante, che è quella di scegliere, varcare la soglia della cabina elettorale e scegliere all'interno di schieramenti, sì, che oggi sono distrutti dagli ultimi 3 anni della politica. Allora, meglio dice, tra un anno invece gli schieramenti si potranno organizzare. Io quando prima una persona intelligente che stimo come l'onorevole Giovanardi diceva: ma dobbiamo commissariare la politica italiana, io dico due cose: siamo già commissariati a livello economico, l'Europa ci ha commissariato e questo è evidente sotto gli occhi di tutti; se la politica italiana è quella che ha partorito questa legge elettorale, è chiaro che necessita di essere commissariata. Io auspico che nel nuovo governo tecnico ci sia qualche costituzionalista che dia vita ad una nuova legge elettorale per poi andare a votare. Grazie Fulvio. Stefano da Urbino, buongiorno. Ma buongiorno, io sono molto d'accordo con Fulvio, Aggiungendo che poi parte della credibilità andando alle elezioni anticipate la perderemo appunto andando con questa legge elettorale. Sì. E poi mi permetto sommessamente di far notare ai due onorevoli intervenuti in transizione che se siamo commissariati dall'Europa forse anche responsabilità loro, perché le riforme che ci attendiamo e che loro promettono da all'incirca 20 non ci anni sono. Non va bene, sono lei insomma la pensa come Fulvio. Senatore Giovanardi, le chiederei questo: senta, pensare a un PDL granitico al 100% per il governo tecnico, uno può sperarlo se uno vuole il governo tecnico, secondo me è un po' un'utopia. Mi dica il margine numerico per il quale un governo tecnico ha legittimità: 20, 30, 40, 50? Scusi, il problema non è solo del PDL. In queste manovre La Lega ha già detto meglio stare all'opposizione. No, anche del PD. In queste manovre che l'Europa ci chiede, come quelli che hanno telefonato dovrebbero sapere, chi si è opposto alla lettera e anche quelle indicazioni dell'Europa è stato proprio il PD. Sì, una parte del PD, una parte del PD dice, poi Di Pietro dice macelleria sociale. Non se ne parla neanche. Allora, se fossimo in una situazione normale, perché poi non è che è commissariato i partiti, commissariato la democrazia, che è una cosa diversa, che il Presidente dello Stato con Prodi tutte e due le volte, nel 98 e nel 2008, hanno fatto una cosa semplicissima, caduto Prodi, hanno incaricato un esponente della maggioranza tutte e due le volte per vedere di allargare la maggioranza, l'hanno fatto con Marini e l'hanno fatto con D'Alema, una volta è riuscito, una volta no. Verificato che non si poteva allargare la maggioranza, si è andato a votare. Sono altre elezioni. Tenere conto che lunedì e martedì è stata una cosa drammatica, perché gli irresponsabili, io non do del traditore a nessuno, ma quelli che hanno sul bilancio dello Stato fatto dimostrare al mondo che hanno sottratto al governo in carica la maggioranza dei voti, ma hanno dimostrato che l'Italia non c'ha un'alternativa, hanno causato un incendio di dimensioni gigantesche. Cioè per lei non sono traditori, ma come li definirebbe? Irresponsabili? Quelli che per spegnere l'incendio gli buttano sopra della benzina. Hanno buttato la benzina sul fuoco. Però Giovanardi, mi dica, lei ha detto non ha ancora capito cosa sia meglio. Ma ragionando esattamente come fanno i nostri interlocutori, e hanno tantissime ragioni a dire il problema è se questo governo tecnico che dovrebbe, perché c'è un Parlamento in Italia, comunque c'è, si vota, parte con una solidarietà larga del Parlamento è un conto. Ma larga quanto? Sociali. Mi dica quanto deve essere larga? Quanto deve essere larga? Numericamente? Mi dica 50 voti di... Ma quello sarebbe un governo, se da un governo che aveva la maggioranza al Senato, una piccola maggioranza alla Camera, si passa un governo tecnico che viaggia su qualche voto in più alla Camera e al Senato con il mal di pancia del PD e con il conforto che non sono apertamente l'opposizione, ma scusi, chiedo a quelli che hanno telefonato, se questo governo tecnico fallisce. Però mi dica, per lei, allora, visto che non ha ancora un'idea precisa, il governo tecnico. Una riflessione oggi. Questo l'ho capito. Democraticamente una riflessione all'interno. Ma mi risponda a questo: secondo lei il governo tecnico è un golpe, come qualcuno ha detto, Calderoli? Ci sono dei miei colleghi che oggi credo che faranno anche, che devo dire, dei gesti, delle azioni, delle azioni molto pesanti, perché ritengono. Cioè che ci sta dicendo? Fare loro queste cose, ma ritengono che questo tipo di soluzione così imposta sia una soluzione proprio no, da incuriosisce. Allora, mi incuriosisce. Cosa si sta riferendo? Non è preso in considerazione. Bisogna solo valutare oggi, alla luce di quello che emerge del quadro complessivo, se sono efficaci per salvare la parte. Però Giovanardi, a cosa si sta riferendo? Che gesti fanno? Chi fa che cosa oggi? C'è chi dice che si dimetterà da deputato per protesta contro quello che definisce un colpo di Stato. Guardi, non me lo può dire. Queste cose accadranno. Succederà. Però si fanno, ci sono anche posizioni di questo tipo. No, ma quindi... è chiaro. Onorevole Della Vedova, senta, per concludere, vorrei capire l'opposizione effettivamente, voi non rispondete per il PD, però il PD sembra diviso su questo. Ma guardi, il governo Monti, che io mi auguro nasca, sarà un governo forte con ampia base parlamentare. Sta alla responsabilità delle forze politiche fare una scelta in qualche modo senza miopi, perché sarebbero miopi calcoli di bottega nell'immediato. Io sono convinto che gli italiani premieranno un governo parlamentare e politico, ancorché guidato da una persona che fino a ieri non era un membro del Parlamento italiano, sì, ma che oggi lo è, anche con i sacrifici che ci saranno, con le scelte dolorose che ci saranno, perché secondo me gli italiani capiranno, anzi già hanno capito, che questo serve per salvare il paese, non le diatribe tra il PDL e la Lega. E tutto, questo entro la domenica, insomma, staremo a vedere. Tra lunedì dovremo decidere. E chiudo con una considerazione. Sentivo il senatore Giovanardi che diceva no, ma la Lega, no, ma Di Pietro. La mia convinzione è che quando si andrà al voto tra un anno e mezzo, sì, si andrà al voto in un altro mondo politicamente ed elettoralmente parlando. Scordiamoci quello che è successo fino a ieri e non ragioniamo con le categorie politiche, elettorali, di coalizione che abbiamo vissuto fino a ieri. Ma poi tra un anno è proprio, diciamo, una prospettiva lontanissima, ormai si ragiona ad horas o comunque entro domenica. Grazie a tutti, a Giovanardi, a Della Vedova, e allora la linea passa a Oscar Giannino e noi ci troviamo domani alle 7:20. 24 mattino.